Saint-Loup mi aveva promesso, dovendo venire a Parigi, che mi avrebbe introdotto in casa di Madame de Villeparisis, dove io speravo, anche se non gliel'avevo detto, di incontrare Madame de Guermantes. Mi propose di fare colazione al ristorante con la sua amante, che avremmo poi accompagnato a una prova. Dovevamo andare a prenderla quel mattino nel sobborgo di Parigi dove abitava. Avevo chiesto a Saint-Loup di fare in modo che il ristorante, nella vita dei giovani aristocratici provvisti di denaro, il ristorante gioca un ruolo di importanza pari a quello delle casse di stoffe nei racconti arabi, che il ristorante fosse, se possibile, quello dove, ahimè, a quanto mi aveva annunciato, avrebbe lavorato come maître in attesa della stagione a Balbec. Era affascinante per me, che sognavo tanti viaggi e ne facevo così pochi, rivedere qualcuno che apparteneva non soltanto ai miei ricordi di Balbec, ma alla stessa Balbec, che ogni anno vi andava, che, quando la stanchezza o le lezioni mi trattenevano a Parigi, era sempre in grado, lui, durante il lungo declinare dei pomeriggi di luglio, mentre aspettava che i clienti scendessero per il pranzo, di vedere il sole abbassarsi e scomparire in mare, attraverso i pannelli di vetro della grande sala, dietro i quali, subito dopo il tramonto, le ali immobili delle navi lontane e cilestrine sembravano esotiche farfalle notturne in una bacheca. Magnetizzato dal contatto con la potente calamita di Balbec, il maître diventava a sua volta, per me, una calamita. Speravo, parlando con lui, di essere già in comunicazione con Balbec, di assaporare senza muovermi un po' del fascino del viaggio. Uscii di casa la mattina, lasciando Françoise che gemeva, perché all'acché fidanzato avevano vietato un'altra volta la sera prima di andare a trovare la sua bella. Françoise l'aveva sorpreso in lacrime. Era stato lì lì per andare a prendere a schiaffi il portinaio, ma si era trattenuto per timore di perdere il posto. Prima di arrivare da Saint-Loup, col quale avevo appuntamento davanti al portone di casa sua, incontrai Le Grandin, che avevamo perso di vista dai tempi di Combré e che, ormai brizzolato, non aveva però dimesso il suo piglio ingenuo e giovanile. Si fermò. «Ah, eccovi!» esclamò, «uomo elegante e per di più in redingot. È una livrea a cui la mia indipendenza non saprebbe adattarsi. È vero che voi sicuramente siete un mondano e andate in visita. Per fantasticare come me davanti a qualche tomba diroccata, la mia lavalière e la mia giacchetta non sono poi tanto fuori posto. Sapete che ho della stima per la bella qualità della vostra anima. Potete capire quanto mi rattristi che la rinneghiate in mezzo ai gentili. Se riuscite a rimanere anche per un solo istante nell'atmosfera nauseabonda e per me irrespirabile dei salotti, decretate contro il vostro futuro la condanna, la dannazione del profeta. Sì, lo vedo, voi frequentate i cuori vacui, la società dei castelli. È il vizio della borghesia contemporanea. Ah, bisognava decapitarli tutti, gli aristocratici. È una colpa del terrore non averlo fatto. Sono dal primo all'ultimo dei sinistri gaglioffi, quando non sono più semplicemente dei tetri imbecilli. Insomma, mio povero giovane amico, contento voi. Mentre voi andrete a qualche 5 o'clock, il vostro vecchio amico sarà di certo più felice, perché se ne starà da solo in un sobborgo a contemplare la rosea luna che sale nel viola del cielo. La verità è che io appartengo ben poco a questa terra dove mi sento così esiliato. Ci vuole tutta la forza della legge di gravità perché ci rimanga e non ne vada in un'altra sfera. Ah, sono di un altro pianeta. Addio! Non prendetevela troppo a male per l'antica franchezza di questo contadino della Vivonne che è rimasto un po' anche il contadino del Danubio. Per dimostrarvi in quale conto vi tengo, vi manderò il mio ultimo romanzo. Ma non vi piacerà. Non è abbastanza deliquescente, abbastanza fin de siècle per voi. È troppo schietto, troppo onesto. Per voi è Bergotte che ci vuole, l'avete confessato, ci vuole roba ben frollata, buona per il palato esausto di gaudenti raffinati. Nel vostro gruppo, suppongo, mi considerate una specie di vecchio militare di truppa. Ho il torto di mettere del cuore in ciò che scrivo, e questo non va più di moda. E poi la vita del popolo non è abbastanza ricercata per interessare le vostre piccole snob. Su, via, cercate di ricordare qualche volta la parola del Cristo. Fate questo e vivrete. Addio, amico. Non ero troppo irritato con Le Grandin quando lo lasciai. Certi ricordi hanno la virtù degli amici comuni, la capacità di riconciliare. Un ponticello di legno in mezzo ai campi sparsi di botton d'oro e di rovine feudali ci univa, Le Grandin e me, come le due rive della Vivonne. Partiti da Parigi dove, a dispetto della primavera già iniziata, sugli alberi dei boulevard spuntavano appena le prime foglie, quando dal treno della cintura sbarcammo, Saint-Loup ed io, nel villaggio suburbano dove abitava la sua amante, fu una gran meraviglia vedere ogni giardinetto pavesato dagli immensi repositori bianchi degli alberi da frutto fioriti. Era come una di quelle feste singolari, poetiche, effimere e locali per assistere alle quali si arriva, in periodi fissi, anche da molto lontano. Ma questa era la natura ad offrirla. I fiori dei ciliegi aderiscono così strettamente ai rami, come una candida guaina, che da lontano, fra gli altri alberi quasi del tutto spogli ancora di fiori e di foglie, si sarebbe potuto credere, in quella ancor fredda giornata di sole, di scorgere della neve, altrove già sciolta e lì invece, su quegli arbusti, conservatasi intatta. Ma i grandi peri avvolgevano ogni casa, ogni modesto cortile, di un candore più vasto, più compatto, più radioso, come se tutte le abitazioni, tutti i terreni del villaggio stessero festeggiando, nello stesso giorno, la loro prima comunione. Questi villaggi nei dintorni di Parigi conservano ancora, alle porte, dei parchi del XVII e del XVIII secolo, che erano un tempo le residenze di campagna degli intendenti e delle favorite. Un orticultore ne aveva adibito uno, situato a un livello più basso rispetto alla strada, alla coltivazione degli alberi da frutto, o forse aveva semplicemente ereditato l'impianto di un immenso frutteto di quei tempi. Disposti a quinconce, più spaziati, meno avanzati di quelli che avevo già visti, i peri formavano lì, separati da bassi muretti, grandi quadrilateri di fiori bianchi, su ciascun lato dei quali la luce veniva a dipingersi diversamente, così che tutte quelle stanze senza tetto e all'aperto sembravano appartenere al palazzo del sole, quale si sarebbe potuto ritrovare a Creta, e facevano pensare anche alle partizioni di un vivaio o di quei tratti di mare che l'uomo suddivide per qualche tipo di pesca o per la coltura delle ostriche, quando la luce, a seconda dell'esposizione, scherzava sulle spalliere come sulle acque primaverili, facendo schizzare e scintillare qua e là, fra i graticci riempiti dall'azzurro dei rami, la schiuma biancheggiante di un fiore spumoso e solare. Era un villaggio antico, con il suo vecchio municipio cotto e dorato, davanti al quale, a guisa d'alberi della cuccagna e d'orifiamme, tre grandi peri erano, come per una locale festa civica, galantemente imbandierati di raso bianco. Mai Robert mi parlò con tanta tenerezza della sua amica come durante quel tragitto. Nel suo cuore lei sola aveva radici. Il suo futuro nell'esercito, i suoi privilegi mondani, la sua famiglia non gli erano certo indifferenti, ma non contavano nulla rispetto a qualsiasi inezia concernente l'amante. Quell'unica cosa aveva prestigio ai suoi occhi, infinitamente più prestigio dei Guermantes e di tutti i sovrani della terra. Non so se egli fosse convinto dentro di sé della superiorità della sua essenza su tutto il resto, ma è certo che aveva considerazione e sollecitudine soltanto per ciò che la riguardava. Per lei era capace di soffrire, di gioire, forse di uccidere. Di veramente interessante, di appassionante, non c'erano per lui che i desideri, i progetti della sua amante, tutto ciò che accadeva, discernibile al più attraverso fuggevoli espressioni, nell'esiguo spazio del suo viso, sotto la sua privilegiatissima fronte. Così delicato per ogni altro verso, arrivava a non scartare la possibilità di un matrimonio d'interesse al solo scopo di poter continuare a mantenerla, a custodirla. Se qualcuno si fosse chiesto quanto la valutava, non avrebbe mai potuto immaginare, credo, un valore abbastanza elevato. Se non la sposava, era perché un istinto pratico gli faceva intuire che, non appena lei avesse cessato d'attendersi qualcosa da lui, lo avrebbe lasciato o perlomeno si sarebbe messa a vivere secondo il proprio capriccio e che bisognava tenerla con l'aspettativa del domani. Sospettava, infatti, che lei potesse anche non amarlo. Certo, la malattia generale, chiamata amore, doveva costringerlo, come fa con tutti gli uomini, a credere a tratti d'essere amato, ma sapeva in pratica che questo amore non le impediva di restare con lui soltanto grazie al suo denaro e che il giorno in cui non avesse avuto più nulla da offrirle o da farle sperare, si sarebbe affrettata, vittima delle teorie dei suoi amici letterati e pensava a Saint Loup pur amandolo, ad abbandonarlo. «Oggi», mi disse, «se si mostrerà gentile, le farò un regalo di cui sarà felice. È una collana che ha adocchiato da Boucheron. È un po' cara per me in questo momento, 30.000 franchi, ma il mio lupacchiotto ha così pochi piaceri nella vita. Sarà contenta, vedrai. Me ne aveva parlato e mi aveva detto di conoscere qualcuno che forse gliel'avrebbe comprata. Secondo me non è vero, ma ad ogni buon conto mi sono accordato con Boucheron, che è il gioielliere della mia famiglia, perché me la mettesse da parte. Mi dà tanta gioia il pensiero che la vedrai. Diviso, sai, non è straordinaria». Capì benissimo che pensava esattamente il contrario e lo diceva solo perché la mia ammirazione ne venisse accentuata. «Quello che ha di speciale è soprattutto una meravigliosa intelligenza. Davanti a te forse le mancherà un po' il coraggio di parlare, ma godo sin d'ora pensando a quello che dopo mi dirà di te. Sai, dice certe cose che non si finirebbe mai da approfondire, è veramente una specie di pizza». Per raggiungere la casa dove abitava, costeggiavamo dei piccoli giardini e io non potevo fare a meno di fermarmi a guardarli, tanto abbagliante era il rigoglio dei loro ciliegie pieni in fiore. Ancora ieri, certamente, vuoti e disabitati come una proprietà sfitta, si erano d'improvviso popolati e abbelliti grazie a quei nuovi ospiti arrivati di fresco, dei quali, attraverso le cancellate, si scorgevano le belle vesti bianche all'angolo dei viali. «Senti, poetica creatura», mi interruppe Robert. «Già che sei in contemplazione, non muoverti di qui. La mia amica abita proprio accanto. Andrò io a prenderla». Mentre l'aspettavo, feci quattro passi, rasentando giardini modesti. A volte, se alzavo la testa, vedevo una fanciulla affacciata a una finestra, ma anche fuori, all'altezza di un ammezzato, soffici e lievi, sospesi a ciuffi qua e là tra le foglie nel loro fresco abito mauve, giovani serenelle si lasciavano cullare dalla brezza senza curarsi del passante che sollevava lo sguardo sino al loro mezzanino di verzura. Riconoscevo in loro i plotoni viola schierati all'ingresso del parco di Soignes nei caldi pomeriggi di primavera per un incantevole arazzo provinciale. Imboccai un sentiero che sfociava in un prato. Vi soffiava un'aria fredda, pungente come quella di Combray. Ma anche lì, in mezzo a quella terra grassa, umida e campagnola che avrebbe potuto benissimo trovarsi in riva alla Vivon, ecco sorgere, immancabile all'appuntamento, come tutta la banda dei suoi compagni, un grande pero bianco che agitava sorridendo e opponeva al sole, come un sipario di luce materializzata e palpabile, i suoi fiori sconvolti dalla brezza, ma inargentati e canditi dai raggi.